Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I rapporti tra il governo e il partito di maggioranza relativa, di cui io mi onoro di far parte, sono fondamentali e ottimi in generale. Dopodiché noi decidiamo avendo in mente quell'obiettivo lì. Non è una decisione di buona creanza questa, è una decisione rilevante. Perché rilevante? Primo perché l'autonomia dell'istituto è importante, è un valore in sé. E con la sua solita placidità, care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gentiloni, Presidente del Consiglio, ha cercato un po' di smorzare i toni su Banca Italia, ha detto che i rapporti col PD, sembra ci fosse una grossa tensione tra governo e PD, sono ottimi e che comunque di Banca Italia va rispettata l'assoluta autonomia. Quindi torneremo ancora su questo argomento questa sera, perché la crisi è sempre aperta, anche se appunto vengono smorzati i toni. Tra l'altro Berlusconi ieri aveva dato in qualche modo, indirettamente, esattamente ragione a Renzi, dicendo che effettivamente il governatore non ha vigilato come doveva sulle crisi bancarie. Oggi invece dice che è stata una decisione improvvida quella della mozione del PD, quindi insomma ci sono tesi e controtesi, ce ne occuperemo, così come parleremo dell'intesa importante che è stata raggiunta a Ischia nel G7 dei ministri degli interni sulla lotta al terrorismo. E si parla anche del rischio di foreign fighters, cioè di coloro che potrebbero dalla Siria, dopo che l'ISIS è stato battuto, tornare nei paesi europei. Ci occuperemo anche di ci sono anche delle dichiarazioni di Berlusconi invece sulle alleanze. Vi ricordo che domenica ci saranno i referendum, parleremo anche di quello. E poi c'è il meteo, c'è la pianura padana, c'è l'allarme inquinamento, c'è una cappa, se voi vedete le immagini che ci sono sui vari siti, c'è questa cappa, questa coperta di smog che opprime sufficientemente tutta la pianura padana. Bene, prima di affrontare tutti questi argomenti nell'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, vi ricordo che ci sono per voi due canali per interagire: pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggio WhatsApp che è 349 238 6666. Quindi prima di tutto sintesi della giornata. Banca Italia, Gentiloni stempera i toni della polemica e assicura tra governo e PD ottimi rapporti, ma l'autonomia dell'istituto è un valore. Renzi si dice d'accordo. Il G7 su terrorismo e sicurezza a Ischia, raggiunta l'intesa tra i ministri dell'interno e con i colossi del web. Il vertice di Bruxelles, temi centrali la Brexit e la collocazione dell'Agenzia Europea del Farmaco che lascia Londra. Catalogna, il primo ministro spagnolo Rajoy domani avvierà l'articolo 155 per revocare l'autonomia. Re Felipe dichiara: la Catalogna è e sarà parte della Spagna. La miss sfregiata con l'acido, condannato a 10 anni Eddie Tavares, l'ex di Jessica Notaro. Tragedia familiare a Como, 4 bambine muoiono nella casa incendiata dal padre. Allarme inquinamento al nord, coperta di smog sulla pianura padana, Torino stop anche agli Euro 5. Europa League, un calciatore maltese segna ma non esulta pensando alla giornalista uccisa a Malta con un'autobomba. E quindi anche oggi partiamo dal caso Banca Italia, la crisi che ha fatto seguito alla mozione del PD contro il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, resta aperta. Botta e risposta tra Calenda e Orfini, oggi è stato dal ministro dello sviluppo economico e il presidente del PD Orfini, ma come avete sentito il presidente del Consiglio Gentiloni rassicura, dice nessuna preoccupazione sulla tenuta del governo. Sarà che sia Matteo Renzi sia Paolo Gentiloni ribadiscono che i rapporti tra PD e governo sono ottimi, ma l'impressione è che lo scontro tra l'esecutivo e il Nazareno non si sia per nulla attenuato. Il premier interviene su Banca Italia e va dritto per la sua strada. I rapporti tra il governo e il partito di maggioranza relativa, di cui io mi onoro di far parte, sono fondamentali e ottimi in generale. Dopodiché noi decidiamo avendo in mente l'autonomia dell'istituto. Gentiloni poi non fa nessun nome sul futuro governatore di Palazzo Koch. Io sulle soluzioni per la Banca d'Italia non parlo neanche sotto tortura. E ad attaccare il PD si aggiunge il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che contesta la mozione contro Ignazio Visco. Così a Repubblica TV. Prima quello che io chiamo un incidente. Rientra, meglio è per il paese. Intanto Matteo Renzi torna a ribadire che l'autonomia di Banca Italia non è in discussione, ma sottolinea: noi siamo dalla parte dei risparmiatori. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma. E dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri, Silvio Berlusconi ha parlato anche di Banca Italia, vero Teresa Trillò, la nostra Teresa Trillò è lì in diretta. Sì, buonasera a tutti. Sì, Berlusconi oggi è venuto qui a Capri, la prima volta che torna a un congresso, a un convegno dei giovani imprenditori, bisogna dire, erano 9 anni che era assente, e ha parlato di Banca Italia. In mattinata, prima di arrivare qui, ha detto che Banca Italia è un istituto autonomo e che è stato quindi improvvido Renzi nel presentare, Renzi, il PD più che Renzi, nel presentare la mozione contro il governatore Ignazio Visco. Qui ha detto che tocca all'apposita commissione bicamerale d'inchiesta sulle crisi bancarie far luce su quanto accaduto, ma sentiamo cosa ha detto. Credo che un controllo sull'attività della Banca d'Italia nei confronti delle banche italiane vada fatto, sicuro, ma va fatto dentro la legislazione. Abbiamo creato una commissione apposita per fare le indagini sulle banche. Ma chi sarebbe bene a quel posto? Cioè, lei confermerebbe Visco o avrebbe altri nomi? Non ho nessun nome, eccetto il mio, perché saprei fare tutto. Anche quello succede. Ma come sì? Non si smentisce, ecco. Insomma, anche questo, diciamo, la battuta dei mag. No. Sì, esattamente, non si smentisce, anche appunto dal palco è stato il solito Berlusconi, è tornato qui tra gli imprenditori, ha tracciato anche il suo programma politico per le prossime elezioni, parlando anche di una ipotesi di coalizione con Fratelli d'Italia e quindi con la Meloni e con la Lega di Salvini, dicendo che con Salvini ora un accordo potrebbe essere più facile da fare, perché Salvini ha un po' rivisto la sua posizione sull'euro e sull'uscita dall'euro, e secondo Berlusconi questa è un'ipotesi impraticabile, impossibile, perché dice uscire dall'euro costerebbe molto. Vabbè. Grazie Teresa Trillò da Ischia. Ciao Teresa, da Capri, scusa. Ciao. Da Capri, perché adesso andiamo invece a Ischia, dove c'è stato il G7 sul terrorismo. Intesa raggiunta tra i ministri degli interni sulle misure comuni da adottare per la lotta al terrorismo, accordo siglato con i colossi del web, perché sapete che tanta parte della campagna propagandistica è fatta proprio sui siti, sui social network, mentre resta alto comunque l'allarme attentati aerei. Un hashtag permetterà di bloccare tutti i video, gli audio, le foto e gli slogan a sostegno del terrorismo islamico, e più tardi poi ci faremo raccontare altri dettagli. Intanto, ritornando sulla politica italiana, domenica prossima si vota per una maggiore autonomia in Veneto e Lombardia. Non è la nostra Brexit, ha precisato Salvini. Il Veneto punta al 50% più 1, nessun quorum invece in Lombardia, dove il governatore Maroni si accontenta di superare quota 30,4%, vale a dire l'affluenza registrata nella regione in occasione del referendum sulle trivelle. Questa volta invece gli elettori veneti e lombardi sono chiamati a dire se desiderano o no che la propria regione avvii l'iter istituzionale per richiedere allo Stato una maggiore autonomia. Un percorso avviato anche dall'Emilia-Romagna, che però lo strumento del referendum ha preferito evitarlo. Molto costoso e sostanzialmente inutile, sostengono gli astensionisti. Difendono così la scelta della consultazione popolare il governatore veneto Zaia e il suo omologo lombardo Maroni a 24 Mattino. La Corte Costituzionale dice che le riforme dall'alto non si fanno più in questo paese, cerchiamo di farle dal basso. Se io e Zaia andiamo a Roma con qualche milione di lombardi e di veneti che hanno detto di sì, il nostro peso aumenta. Chi non teme una deriva catalana e secessionista, come paventato dal ministro dell'Agricoltura Martina, domenica 22 ottobre avrà tempo dalle 7 alle 23 per recarsi ai seggi. In Veneto si userà la classica scheda cartacea, mentre in Lombardia per la prima volta si ricorrerà al voto elettronico. Al cittadino verrà fornito un tablet sul quale dovrà esprimere la sua scelta. Sulla sicurezza del voto elettronico però è già polemica, visto che un hacker ha fatto sapere di essere riuscito ad ottenere l'accesso ad informazioni sensibili su server non protetti. Notizia smentita da Smartmatic, la compagnia che ha vinto il bando. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il vertice di Bruxelles. Temi centrali sono stati la Brexit e la collocazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, che lascia Londra e Milano è candidata in primissima fila. Approfondiremo questo argomento, anche questo tema, nel corso di Effetto Notte. Poi come parleremo anche della crisi spagnola, visto che Rajoy, il primo ministro spagnolo, conferma di aver concordato le misure che Madrid annuncerà domani nel quadro dell'applicazione dell'articolo 155, che è quello che dovrebbe revocare l'autonomia alla Catalogna. E poi invece, tornando sulle notizie italiane, con la cronaca, la vicenda della miss sfregiata con l'acido, è stato condannato a 10 anni Eddie Tavares, 29 anni, di Capoverde, che la notte del 10 gennaio ha sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Jessica Notaro. Il PM Cerroni aveva chiesto 12 anni di reclusione. Vi ricordo che la pronuncia è stata fatta in corrito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena. Tavares dovrà risarcire inoltre la donna con 230.000 euro e sarà espulso al termine della pena, anche se lei giustamente ha detto: ormai, al di là della sentenza, la mia vita è rovinata. E su questo ci sono state delle reazioni. Per esempio, Roberto Calderoli della Lega, vicepresidente del Senato, ha detto: inutile e anche ipocrita continuare a riempirsi la bocca di paroloni contro la violenza sulle donne, se poi, quando si passa dalle parole ai fatti, il criminale che ha sfregiato con l'acido Jessica Notaro, deturpandole il volto, lasciandole, lesionandole la vista, rovinandole la vita per sempre, si è preso appena 10 anni, perché effettivamente, tra sconti vari, probabilmente non farà più di 5-6 anni. E poi a Como, follia e povertà dietro il gesto di un marocchino che ha dato fuoco alla casa dove si trovava con le sue 4 figlie, tutte morte con lui. Una storia di miseria che si conclude nel modo peggiore possibile, commenta il sindaco di Como, Mario Landriscina, di fronte all'appartamento dato alle fiamme da un uomo di 49 anni, di origini marocchine. La moglie ricoverata per problemi di ordine psicologico, lui che doveva gestire 4 bambini. I servizi sociali seguivano la famiglia, un ente di beneficenza aveva messo loro a disposizione un appartamento dopo lo sfratto, ricevevano il pacco viveri. Ma aiutarli non era semplice, racconta il direttore della Caritas di Como, Ettore Bernasconi, che segue la famiglia da anni. Qui c'è un problema del capofamiglia che era poco gestibile. Credo che poi questo gesto fatto è stato un gesto inconsulto per darsi una visibilità, credo. E probabilmente è andato là oltre a quello che lui pensava potesse essere. A Bernasconi della Caritas resta il rammarico di non aver potuto fare di più, ma l'uomo non mandava i figli a scuola e non andava oltre qualche lavoretto, affidandosi alla carità pubblica, racconta. È un guaio, perché ci sono andati di mezzo i bambini. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca dalla capitale, da Roma, la storia di un 13enne morto a scuola. La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per fare luce su quello che sembra essere un gesto volontario. Sembrerebbe che si sia gettato nella tromba delle scale della scuola salutando i compagni. Il PM procede per istigazione al suicidio, anche se per gli inquirenti sono piuttosto chiari i tormenti del ragazzo. E poi bisogna parlare dell'allerta smog, come vi dicevo, che affligge il nord Italia. Il Comune di Torino ha esteso lo stop alle auto da domani anche agli Euro 5 diesel. Salgono a circa 250.000 le auto che quindi non potranno circolare. Allerta che riguarda anche Milano, dove si sono superati i limiti delle polveri sottili da 9 giorni. Sentiamo Michele Camisasca, direttore generale di ARPA Lombardia. I dati di quest'oggi confermano che nella zona della provincia di Milano siamo in effetti al 9° giorno di superamento consecutivo dei 50 microgrammi. Milano, abbiamo detto che è in una media di circa 98 microgrammi, quindi siamo ben sopra i 50, ma anche a Bergamo siamo vicini ai 90, a Brescia 95, con anche lì 9 giorni di superamento consecutivi. Ugualmente Pavia e Lodi, dove oggi siamo addirittura al 10° giorno consecutivo, nonché Cremona e Mantova. Per chiudere lo sport con questa notizia che davvero vale la pena di citare. André Schembri, capitano della nazionale maltese, giocatore simbolo del calcio dell'isola, ha segnato con l'Apollon contro l'Atalanta in Europa League, ma quando ha fatto questo gol ha evitato di esultare in omaggio, pensate alla memoria della giornalista Daphne Caruana, che è stata uccisa a Malta lunedì scorso con un'autobomba, perché stava portando da tempo avanti delle inchieste sia contro il governo che anche in parte contro l'opposizione. Non mi sembrava giusto festeggiare dopo quello che è successo a Malta, spiega il giocatore sul suo profilo Facebook. E quello di Schembri era il primo gol di un maltese nelle coppe europee, quindi ancora più nobile, ancora più civile, ancora più umano questo suo gesto. Bene, a questo punto, riassunto della giornata, completo delle notizie almeno più importanti dall'Italia e dall'estero. Dopo cominciamo con i temi da approfondire insieme agli ospiti. Intanto questo ascoltatore, Paolo da Torino, dice: cara Roberta Giordano, sono un ascoltatore da tempo, ti confesso che mi piacerebbe molto che tu ricordassi in diretta il 33° anniversario della scomparsa del regista francese François Truffaut, padre della Nouvelle Vague. Lo ricordiamo, dice, ricorre domani l'anniversario della morte. I suoi film sono autentica poesia e poi ricorda naturalmente Effetto Notte, ed ecco, quindi diciamo c'è un certo debito, almeno così simbolico, nei suoi confronti anche da questo punto di vista, e va bene, quindi lo ricordiamo, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie, come sempre, le avete sentite nel riassunto della giornata. Tra poco vi ricordo i titoli principali, poi cominciamo ad affrontare il primo tema con l'ospite. Naturalmente ritorniamo su Banca Italia, perché le polemiche vanno avanti, poi c'è anche chi dice una cosa e poi la ritratta, insomma, diciamo che è un po' un'abitudine della politica italica, ma non solo, probabilmente, diciamo, di ordinaria amministrazione. 349-238-6666 è il numero per WhatsApp ed SMS, se volete scrivere i vostri commenti, le vostre osservazioni oppure riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Vedo ancora i vostri messaggi. Questo ascoltatore dice: tra Gentiloni e Mattarella non so chi sia più soporifero. Silvio può sembrare innato solo grazie ai media, sembra deboluccio, ma insomma non bisogna mai sottovalutarlo. In realtà Berlusconi sembra tornato in forma ed agguerrito, e poi si vedrà, perché già in Sicilia pare che, almeno dai sondaggi, se la veda col Movimento 5 Stelle, mentre il PD pare un po' indietro. Comunque, prima, dicevo, di affrontare il primo tema, vi ricordo, per i ritardatari, che questi sono i fatti principali della giornata. La vicenda Banca Italia, Gentiloni che stempera i toni della polemica, assicura che tra governo e PD i rapporti sono ottimi, ma l'autonomia dell'istituto, ribadisce, è un valore. Il G7 su terrorismo e sicurezza a Ischia, raggiunta l'intesa tra i ministri dell'interno e con i colossi del web sulle misure da adottare contro il terrorismo. Il vertice di Bruxelles, temi centrali, la Brexit e l'Agenzia Europea del Farmaco che lascia Londra, a capire dove collocarla con Milano che è candidata di prima fila. E poi la Catalogna, il primo ministro spagnolo Rajoy domani avvierà l'articolo 155, quello che revoca l'autonomia alla Catalogna. Il movimento, la miss sfregiata con l'acido, condannato a 10 anni Eddie Tavares, l'ex di Jessica Notaro, lei però dice: ormai la mia vita è rovinata, tragedia familiare a Como. 3 bimbe e un maschietto muoiono nella casa incendiata dal padre. Allarme inquinamento al nord, c'è una coperta di smog sulla pianura padana. A Torino stop anche ad Euro 5 diesel, quindi ci saranno 250.000 auto ferme. E per l'Europa League questa notizia di questo gesto grandioso di questo calciatore maltese, che ha segnato per la prima volta, una squadra di Malta tra l'altro ha segnato nelle europee, non esulta pensando alla giornalista uccisa a Malta con un'autobomba. I rapporti tra il governo e il partito di maggioranza relativa, di cui io mi onoro di far parte, sono fondamentali e ottimi in generale. Dopodiché noi decidiamo avendo in mente quell'obiettivo lì. Non è una decisione di buona creanza questa, è una decisione rilevante. Perché rilevante? Primo, perché l'autonomia dell'istituto è importante, è un valore in sé. Quindi sempre morigerato, sempre pacifico, Gentiloni, come dicevo all'inizio, ha smorzato i toni su questa polemica su Banca Italia, in particolare tra il governo e PD. Però la controversia sull'istituto continua, prodotta, vi ricordo, dalla mozione del PD che è stata approvata dalla Camera giorni fa e che era mirata a evitare di rinnovare l'incarico al governatore di Banca Italia Visco per gli scandali bancari che ci sono stati. In questi giorni abbiamo seguito passo passo questa crisi che ne è scaturita. Renzi, che diceva di non sapere, che però ne rivendica la giustezza, continua a difendere la giustezza di quella mozione in questi giorni e fino a oggi. La pioggia di critiche che lo ha investito, che ha investito Renzi e anche il PD da destra, da sinistra, e poi lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella, i ministri come Calenda e Padoan. Gentiloni, che prima sembrava che non ne sapesse nulla, poi Renzi ha detto: no, in realtà questa mozione è stata prima approvata, una volta ammorbidita, dal governo, quindi Gentiloni sapeva. Quindi si è temuta questa crisi interna al governo tra Gentiloni e Boschi, la sottosegretaria che non aveva avvertito, invece poi lui ha detto, Gentiloni ha riconfermato l'assoluta fiducia a Boschi. Poi la ventilata Maretta tra il governo, quindi tra Gentiloni e il PD, invece avete sentito, i rapporti sono ottimi, così anche ha detto Renzi. Anzi, lo sentiamo Renzi che dice a sua volta: La penso come Paolo, i rapporti tra governo e PD sono ottimi, nessuno mette in discussione l'autonomia e l'indipendenza e quindi lasciamo a chi di dovere il compito di decidere. Dall'altro lato il PD sta dalla parte dei risparmiatori. Ecco, come ha ripetuto in questi giorni, poi c'è stata la polemica tra il ministro dello sviluppo economico Calenda, che ha detto ma vabbè è stato un errore di percorso, Orfini invece, presidente del PD, ha detto non è un errore, un incidente di percorso, è democrazia. Ciao Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buonasera. Cara Barbara, vogliamo sentire anche dalle opposizioni Salvini che cosa ha detto della Lega Nord? L'unica soluzione è riportare sotto controllo pubblico un istituto come Banca d'Italia, che oggi è in mano alle banche, quindi sono i controllori che controllano se stessi, è assolutamente fuori dal mondo. Quindi su Visco ha ragione Renzi? Sì, sul fatto che non abbia vigilato sì, però domando a Renzi dove era mentre succedeva tutto quello che è successo, quindi sono due torti che si confrontano, dovrebbero fare un passo indietro sia Visco che Renzi. Anche Lino da Bologna dice, scrive, banche, ma quando Renzi era presidente del Consiglio non andava dicendo che il sistema bancario italiano era sicurissimo, meglio di quello di altri paesi europei? Ancora dall'opposizione, Ruocco del Movimento 5 Stelle. Fino a poco tempo fa difendeva il governatore della Banca d'Italia e adesso cambia idea soltanto perché si avvicinano le elezioni. Il Partito Democratico si è spaccato, mentre invece il Movimento 5 Stelle è fermo e coerente. Insomma, Barbara, la tensione, il putiferio continua su questa vicenda. Tra l'altro anche Berlusconi, che abbiamo sentito ieri, abbiamo sentito l'audio che diceva che effettivamente Via Nazionale, quindi Banca Italia non ha svolto il controllo che ci si attendeva, oggi invece ha detto Matteo Renzi ha fatto la sua mozione, è stata improvvida, mai trascinare Banca Italia in scontri tra gruppi politici o partiti, non bisogna intaccare l'autorevolezza. Sì, oggi Berlusconi ha fatto questa correzione di tiro, mi viene da dire che ci sono trattative in corso, il nome del futuro governatore non lo abbiamo ancora ed è immaginabile che appunto in queste ore ci sia un confronto sia all'interno della maggioranza e quindi tra il Partito Democratico e il governo e una consultazione continua tra il governo stesso e il Quirinale. Sono poi questi il triangolo, diciamo, che forma questo confronto che è in atto. Su come finirà, devo dire, l'incertezza in questo momento è totale. Sì, nel senso che c'è chi dice che si va in queste ore, che diceva sì, si sta andando verso una riconferma di Visco, c'è chi dice che non è pensabile una riconferma di Visco, che sarebbe una netta sconfitta di Renzi, e che quindi bisognerà trovare comunque un nome di mediazione. La situazione è abbastanza complicata, l'unica certezza che abbiamo è che il 31 del mese, cioè tra dieci giorni, Ignazio Visco completerà il suo mandato, quindi entro questi 10 giorni è presumibile, anzi è auspicabile che ben prima di questi 10 giorni, perché solitamente non si arriva a fine mandato per decidere chi è il futuro governatore della Banca d'Italia, anche perché ci sono degli appuntamenti la prossima settimana e quindi è immaginabile che forse già nelle prossime ore o se non nei prossimi giorni si arriverà a una conclusione. A quel punto potremmo fare un bilancio tra vincitori e vinti e sapremo quantomeno chi sarà il governatore della Banca d'Italia per i prossimi 6 anni. Barbara, ma per esempio se Visco dovesse fare un passo di lato, un passo indietro, cioè potrebbe essere auspicabile che così preso di mira e con gli scandali bancari che ci sono stati, che sia stata tutta responsabile, no, responsabilità di questo istituto di vigilanza, no, che però insomma diciamo Berlusconi ieri aveva dato ragione, anche se oggi dicevi tu ha riaggiustato il tiro, la mozione del PD va in quel senso, anche una mozione precedente che doveva esserci, era in preparazione mi pare del Movimento 5 Stelle, anche quella in quella direzione. Salvini pure ha detto più o meno la stessa cosa, sì Renzi, quella mozione effettivamente poteva essere opportuna, però Renzi lo fa solo per questioni elettorali, quindi forse non è un po' accerchiato in questo momento, tutto sommato, il governatore? Ma certamente è il principale protagonista, anche suo malgrado, voglio dire che è evidente, no? Quando c'è una situazione come quella che si è verificata in questi anni rispetto agli scandali sulle banche, l'istituto che su queste doveva vigilare, il più alto in grado, viene messo, come dire, sotto accusa, anche se magari di responsabilità dirette non ce ne sono, cioè è l'istituzione che in realtà è stata messa in più occasioni in questi, anche nei mesi scorsi, sotto accusa, su imputandole una mancata vigilanza, no? Rispetto a quanto avvenuto. C'è una commissione d'inchiesta che è chiamata ad accertare, difficilmente riuscirà a farlo entro questa legislatura, visto che lo stesso Visco ha presentato 4.000 documenti, altrettanti se non oltre ne ha presentati la Consob, Vegas della Consob, quindi insomma è immaginabile che istruire una vicenda così complessa non si risolve in pochi mesi a fine legislatura. Certamente adesso però il discorso che tu facevi, cioè Visco fa un passo indietro, fino adesso il governatore sembra fermo a non farlo questo passo indietro. Più passano i giorni, più però sembra diventare, come dire, sembra quasi che ci sia un, cioè non, le voci che si sentono non sono tanto in difesa di Visco, lo stesso Gentiloni, quanto dell'autonomia di Banca d'Italia, cioè dell'istituzione Banca d'Italia. E io insisto sul fatto che bisogna sempre tenere presente che il governatore della Banca d'Italia, così come gli altri governatori delle altre banche centrali, hanno poi un ruolo fondamentale a Francoforte, dove è la BCE, quindi siccome nei prossimi mesi ed anni si andranno a discutere temi fondamentali per l'Italia, quale ad esempio quello sulla valutazione dei titoli che giacciono presso le banche e sulla loro eventuale necessità di un'ulteriore patrimonializzazione degli istituti bancari, è evidente che bisogna presentarsi a questi appuntamenti con la massima credibilità e anche con un governatore forte su questo. Quindi diciamo che l'interesse che dovrebbe essere dominante in questo momento in tutte le istituzioni, a partire dalla stessa Banca Italia, ma anche il Quirinale e il governo, dovrebbe prevalere l'interesse del Paese ad essere rappresentato, insomma, nella partita che si aprirà con gli altri banchieri, con il governatore della banca tedesca e delle banche del nord, in generale con gli altri governatori delle banche del nord, che come sappiamo spingono per criteri più rigidi che certamente rischiano di penalizzare ulteriormente le banche italiane, e questo poi si riflette, perché i nostri ascoltatori potrebbero dire: vabbè, ma a noi che ci importa? A noi importa perché se i criteri sono più rigidi aumenta il costo del denaro e quindi si deprimono gli investimenti, e quindi ci importa e molto. Direi che è questa la valutazione che sicuramente stanno facendo in queste ore, immagino, almeno auspico. Barbara, appunto, abbiamo ancora un minuto. Mario scrive: la critica di Renzi alla Banca d'Italia mi trova d'accordo e questo non mi sembra che significhi attaccare l'autonomia. Poi c'è un altro ascoltatore, Enzo, dice: solite polemiche, se lo riconfermano, con tutto quello che è successo è stato riconfermato, se non lo riconfermano, poverino, dovevano riconfermarlo, mi viene in mente il film di Gattopardo, eccetera eccetera. Senti, proprio un accenno brevissimo a Berlusconi, che oggi era tra i giovani imprenditori a Capri, anche lui giovane imprenditore, perché insomma, no, praticamente ridiscende in campo, non so quanti però sentiamolo, che lui avrebbe voluto godersi la vita, però lo sente come un dovere. Sentiamo. Io ho 81 anni, speravo di godermi la vita, sono ancora in campo contro i miei figli, contro i miei collaboratori, contro i miei azionisti, per disperazione, perché ho sentito come nel 94, quando se non scendevo in campo io andavano i comunisti o i post-comunisti che sia al potere, di farlo anche stavolta. Ma sono venuto qui, ho accettato l'invito del vostro Presidente, che ringrazio, perché vorrei che in voi, in qualcuno di voi, nascesse lo stesso senso del dovere. Capito, Barbara Fiammeri, il senso del dovere che spinge nuovamente Berlusconi a 81 anni a riscendere in campo. Senti, lui ha detto però: spero di essere candidato, altrimenti farò il regista. Che film potrebbe fare secondo te Berlusconi? Ma mi sembra che Berlusconi la parte che stia giocando è quella di essere l'ago della bilancia della prossima legislatura, nel senso che si tiene aperte tutte le strade. e sta impersonando, anche quando ieri è andato appunto al vertice del PPE, sta impersonando l'anima moderata del centrodestra, anche i passaggi che ha fatto oggi su Salvini. Però è evidente anche qui, insomma, si dovevano vedere, ogni volta questo appuntamento viene rinviato. Si vede che sono impegnate. Le distanze restano, le parole di Berlusconi vanno lette appunto come chi si candida a guidare una forza politica che intende esprimere, come dire, un'area moderata. Un'area moderata che vorrebbe, che aveva voluto esprimere anche Renzi guardando a destra, ma che Renzi evidentemente non è riuscito ad attrarre, tant'è che si è spostato lui stesso su posizioni più, definiamole tra virgolette, populiste, appunto, quale quella su rappresentata dalla mozione su Banca d'Italia. Quindi da questo punto di vista Berlusconi si sta giocando la sua partita. Le elezioni siciliane saranno sicuramente un bivio determinante, perché dalle elezioni siciliane, che da sempre vengono definite un laboratorio della politica, noi vedremo che se il centrodestra è compatto, unito e dovesse vincere, vittorioso, avrà sicuramente questo risultato dei contraccolpi sia sul Movimento 5 Stelle. Di Maio è praticamente sempre in Sicilia, proprio perché ha messo la faccia sulla candidatura del grillino Cancelleri sull'isola, e così come anche la divisione della sinistra tra le liste, insomma, tra l'aspirante governatore del PD e quello della sinistra dei bersaniani, la divisione lì determinerà, cioè conclamerà il fatto che il centro-sinistra è morto e che non è in grado di esprimere una maggioranza di governo. Quindi saremo molto attenti a quello che uscirà succederà fuori dalle elezioni siciliane. Si vota, lo ricordo, il 5 novembre. Grazie intanto a Barbara Fiammeri, buon fine settimana a te. Grazie, ciao Barbara. Grazie a tutti voi. Ciao. I vostri messaggi, però siamo in ritardissimo, prendiamo la pausa e poi tra poco di nuovo insieme. 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS, se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se per caso state ascoltando meritevolmente Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, sempre sulla vicenda Banca Italia, che vedo che da giorni interessa molto anche voi, giustamente. Flavio dice: lo scontro innescato da Renzi è surreale, la miglior difesa è l'attacco. D'altra parte, per chi fa campagna dal 2008-2009 per la commissione d'inchiesta sulle banche e per la separazione bancaria, tuttavia occorre passare a misure pratiche capaci di tutelarci dal prossimo crack finanziario. Mentre un altro ascoltatore, Mario, no, questo l'abbiamo già letto prima, e quest'altro messaggio. Roberta dice: il problema delle banche MPS iniziate il 2008, al primo anno del governo Berlusconi e la Lega di Salvini, loro già sapevano del problema delle banche. Comunque adesso cambiamo argomento, parliamo di lotta al terrorismo. Vi ricordo molto velocemente che le notizie principali sono sempre appunto Banca Italia in primo piano, si smorzano un po' i toni, però la crisi è sempre aperta, e poi il G7 su terrorismo e sicurezza a Ischia, ci colleghiamo adesso con l'isola, il vertice di Bruxelles, temi centrali la Brexit e la collocazione dell'Agenzia Europea del Farmaco che lascia Londra, e poi Catalogna, anche questo sarà argomento di approfondimento tra poco. Si è chiuso quindi oggi a Ischia il G7 dei ministri dell'interno. Il tema dominante è stato la lotta al terrorismo islamico e quindi le misure di sicurezza. Pare che il clima generale fosse piuttosto di soddisfazione, perché è stata raggiunta un'intesa sia a livello politico sia coi grandi provider del web, quindi coi grandi colossi del web, perché sapete che la campagna, la propaganda, insomma, per fare proseliti adesso viaggia soprattutto online. Sentiamo Minniti che cosa ha detto. Abbiamo deciso di avere un'azione comune sia sul terreno della raccolta delle informazioni sia sul terreno della condivisione delle informazioni. Sono due aspetti fondamentali, raccolta e condivisione. Innanzitutto, nel momento in cui il racco è caduto, c'è la prima questione della raccolta delle informazioni sul terreno, sul campo di battaglia. Raqqa, che è stata per 3 anni la capitale di Islamic State, può diventare anche una preziosa miniera di informazioni. E lì c'era il nostro Vincenzo Miglietta in diretta. Caro Vincenzo, ciao. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Quindi sembra che sia stato un vertice dove delle cose concrete sono state decise? Sì, decisamente, perché Roberta è stato segnato comunque un salto di qualità nella lotta al terrorismo, perché si passa dall'incentivare, aumentare la lotta al terrorismo sul campo tradizionale, che quindi può essere quella in Medio Oriente, in Siria, in Iraq, ma anche in Europa, e parallelamente però ci si rende conto che è necessario fare qualcosa sul web, soprattutto a livello di prevenzione, perché è stato ripetuto che l'affiliazione, la propaganda da parte dell'ISIS avviene molto attraverso la rete, soprattutto è utile per risvegliare quelli che vengono detti i lupi solitari, per cui l'accordo con Microsoft, Google, Twitter e Facebook è proprio finalizzato a tal fine. Quindi Vincenzo, diciamo, per una volta, a volte si dice tutti questi vertici, se ne esce un po' insoddisfatti, più parole che altro. Questa volta, visto che si dice da tanto tempo che serve davvero una collaborazione internazionale, quindi anche informazioni di intelligence che si scambiano e poi delle misure coordinate, no, fra i paesi, si spera davvero che questo sia un salto di qualità, come dicevi. Dovrebbe essere un salto di qualità, però ecco, come sempre Roberta, poi dal passare dalle parole ai fatti resta il dubbio, perché non so effettivamente come poi tecnicamente si potranno controllare sul web alcuni contenuti. Si parlava di un hashtag particolare, insomma, poi vedremo prossimamente se effettivamente, come dici tu, si passa ai fatti concreti. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta da Ischia. Grazie. Ciao Vincenzo, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie, ogni tanto ve le ricordo molto velocemente. Abbiamo appena parlato adesso del vertice a Ischia dei ministri del G7, insomma, i ministri dell'interno, per cercare di raggiungere questa intesa, di trovare misure comuni per combattere il terrorismo islamico. Insomma, di parole se ne sono fatte di importanti, dicevamo, vediamo se si passa ai fatti. Del vertice di Bruxelles e della Catalogna parleremo tra pochi istanti, poi sempre in primo piano la vicenda di Banca Italia, con Gentiloni che ha stemperato un po' i toni della polemica, dicendo che tra governo e PD ci sono ottimi rapporti, però ha sottolineato l'autonomia di Banca Italia è un valore. E poi la Miss, ex Miss Romagna, sfregiata con l'acido a Rimini, è stato condannato a 10 anni. Eddie Tavares, l'ex di Jessica Notaro, le dice: ormai comunque mi ha rovinato la vita. Poi la tragedia familiare a Como, 3 bimbe e un maschietto muoiono nella casa incendiata dal padre, e l'allarme inquinamento al nord, che c'è proprio una coperta di smog sulla pianura padana. E abbiamo qui il nostro Sergio Nava. Caro Sergio. Ciao Roberta. Con cui vorrei fare un po' una sintesi di quello che è stato detto oggi, in questi 2 giorni, anzi una 2 giorni, il vertice di Bruxelles, il vertice europeo. Mi pare che i temi principali siano stati il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea, quindi la Brexit, e poi anche c'è stata la discussione sull'EMA, sull'Agenzia Europea del Farmaco, che con il divorzio della Gran Bretagna dovrebbe lasciare Londra e Milano, insomma, in pole position, si spera. Mi pare che addirittura la prima ministra britannica May abbia chiesto aiuto ai partner europei per non fare, insomma, per riuscire a raggiungere un compromesso che non le faccia fare anche una brutta figura, diciamo, in patria, no? Sì, il problema è che comunque lei ha qualche problema grosso a casa, con all'interno del suo partito, un giorno sì e l'altro pure, si dice che può scattare la rivolta che la fa fuori dopo le insomma disastrose elezioni di giugno, volute e vinte per modo di dire da lei, che poi alla fine non è riuscita neanche a conservare quella risicata maggioranza aveva conquistato Cameron. Quindi di fatto il discorso di Theresa May è stato: datemi una mano, perché chiaramente se vi date una mano io vi darò una mano. Però non hanno, veniamoci incontro, insomma, non hanno granché abboccato i leader europei, perché alla fine è molto chiaro, devo dire, una volta tanto le conclusioni del Consiglio Europeo sono molto chiare, se si va a leggere sull'articolo 50 della Brexit, dicono: sui cittadini le cose stanno andando discretamente, ci sono passi avanti, addirittura si ipotizza la possibilità che chi, i cittadini europei comunque avranno dalla loro la legislazione della Corte di Giustizia Europea, cosa su cui gli inglesi non sono per nulla d'accordo, però insomma queste sono le conclusioni europee. Anche sull'Irlanda del Nord si dice beh sì, comunque passi avanti si fanno anche per il mantenimento del Good Friday Agreement, per la pace, insomma. Però sul conto del divorzio, come in ogni divorzio si rispetti, si dice da parte inglese non vediamo ancora, non intravediamo anzi, degli impegni concreti. E Theresa May a Firenze aveva sostanzialmente offerto, senza dirlo in modo così esplicito, 20 miliardi di euro. Gli europei vogliono 3,50 e 60. Nel senso che deve continuare la Gran Bretagna a dare dei finanziamenti. A onorare, no? gli impegni finanziari di budget. Nel confronto dell'Unione Europea non può così di botto tirarsi indietro quei soldi che vengono a mancare, che erano stati probabilmente programmati. Sì, anche perché parliamo di un quadro finanziario che va fino al 2020, quindi anche l'anno successivo alla Brexit. Poi comunque da parte britannica c'è il desiderio di avere un periodo di transizione di un paio d'anni, quindi si andrebbe fino al 2021, forse 2022, quindi però da una parte la Gran Bretagna dice 20 miliardi, dall'altra l'Europa dice non meno di 50-60, forse anche di più. È probabile a questo punto, se la May è effettivamente così debole, che altri due round negoziali, la Gran Bretagna a quel punto forse cede e a dicembre si riesce a chiudere, poi con un aumento dell'assegno di divorzio e poi dall'anno prossimo forse si comincia percorso. A disegnare il quadro di relazioni post Brexit. Invece per quanto riguarda la Catalogna, allora ieri abbiamo detto che era scaduto il secondo ultimatum, l'ultimo inderogabile dato da Madrid, dal governo centrale, quindi alla Catalogna, per diciamo abbiurare ormai, diciamo, di rinunciare alla dichiarazione dell'indipendenza della Catalogna. Però Puigdemont, il presidente catalano, mi sembra che abbia fatto un po' orecchie da mercante. Nel ma senso in che realtà non... tra le righe, questo non è uscito molto, ma diversi media spagnoli e anche catalani l'hanno fatto notare, Puigdemont di fatto tra le righe ha risposto, ha detto non l'abbiamo dichiarata indipendenza, non l'ha detto in modo così chiaro, ma si desumeva, tanto che ha detto se applicate il 155 e sospendete autonomia la dichiariamo, quindi vuol dire che non era stata dichiarata. Infatti Madrid dice che già ha annunciato che domani dovrebbe il governo cominciare a capire quando applicare questo articolo della Costituzione 155 che prevede la sospensione quindi dell'autonomia. Non è ancora chiaro in quali ambiti, in quali settori, però si può dire forse che anche Puigdemont ha capito che ha fatto forse il passo più lungo della gamba e che a questo punto forse non sa neanche più lui bene cosa fare, Sergio. Diciamo che tutti sono un po' così in difficoltà, non solo lui. È chiaro che probabilmente si aspettava sicuramente un'apertura maggiore di dialogo che non ha trovato, anche se poi la strada è abbastanza tracciata. Lunedì la giunta del Parlamento catalano si riunirà per approvare probabilmente una seduta mercoledì in cui si dovrebbe dichiarare indipendenza. Poi è possibile che le due strade poi possano convergere, anziché andare a una situazione totale di incertezza con Barcellona che dichiara indipendenza, Madrid che sospende autonomia e non si capisce più granché, e si rischia anche l'uso della forza a quel punto, potrebbero in realtà convergere su elezioni autonomiche anticipate, e a quel punto, se fossero poi a gennaio come dice Madrid, o in un altro mese, in un altro periodo, se decide Barcellona, anche lì bisogna capire chi deciderà, sarà la vera prova di forza a quel punto. Grazie Sergio. Grazie Lava. A te. Ciao, ciao Sergio. E adesso dobbiamo capire che tempo farà con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caro Paolo, qui buonasera. Temo che l'estate sia finita. C'è un ascoltatore che dice siete degli egoisti perché a voi piace il caldo, invece questo porta lo smog. No, perché Paolo Corazzon gli piace il freddo, lui è un pinguino, io un gatto. No, infatti sì. Io non vedo l'ora che la situazione cambi. In realtà cambierà sì, ma di poco, quindi la vincerai tu su di me. Com'è la situazione? Che domani avremo una giornata simile a quella odierna con ancora cielo grigio al nord, ma perché c'è nebbia, c'è umidità e c'è anche inquinamento. In ora padana, già, situazione purtroppo. Un po' critica, sì. Purtroppo. Nel resto Italia domani giornata ancora soleggiata e molto mite, domenica invece, tra domenica e lunedì, una perturbazione finalmente porta un po' d'acqua, domenica al centro-nord, lunedì al sud, ma guardate, sarà l'unica di questo periodo perché poi si riapre un periodo prolungato di alta pressione, di nebbie, di smog, quindi in realtà non si sblocca molto la situazione, il vero problema teme la mancanza d'acqua, piove troppo poco da troppo tempo. Speriamo davvero che qualcosa cambi, quindi Roberta, io mi auguro in un autunno che torni a fare l'autunno, speriamo. Farai la danza della pioggia perché ognuno faccia il proprio mestiere, infatti farà caldo ma purtroppo con effetti negativi. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao caro Paolo, noi ci risentiamo alle 22.